veloce e tenti di innalzare con il mercato aperto. E Fantoni mi vede che è un po' come dire trovi un tipo, una persona nuova, una cuore nuovo, però per volte la dice, ma quello la droga non è mai scelto di farla comprarla. E chi me ne frega? Io so che è morto, fa pronare, è morto tra le cose, è morto per quel tipo di droga che tendono in strada. E lui non si è scelto un particolare che a me non interessa. Anche l'aereo proprietario, no? Dice, vabbè, ma allora se non fallisco sei un fottista, tu dici che non è stato meglio, io non sono meglio. E allora che è stato il tanto? Perché cosa lo vedo? È evidente che non stanno qui. Poi lo posso stare al fiume, può stare in un mare, può stare in un mare della riviera di Ciao, con un pezzo di malattia. Ossia non so se io devo fare le prove di un'evidenza, ok? Il fatto che queste banconote, in soldoni, le banconote le può stampare solo la banca centrale. Vediamo? Questo sono loro lo dicono. Qui ci sto. Il boss può stampare solo lo Stato. Ok? Il boss non può stampare moneta. Eppure, noi ci troviamo anche le banconote e la banca centrale si trova in riserva, potete vedere questa riserva, dei crediti per il Stato. Questo scambio qua avviene anche in giro una testa, che io lo so, adesso non è una lunga, e comunque, cercando lo affronteremo, comunque avviene, come quello che posso per aver posto per droga, che sia uno che di nascosto che ha portato su, o che di nascosto che è sceso giù, o che hanno inventato un sistema, tipo appunto questo che stava aperto, anzi non lo dico basta. La banca centrale non può comprare i post. La banca centrale non può andare lì con il banconote e comprare il post. Dove li compra? Nel mercato aperto. E cos'è il mercato aperto? Il mercato aperto fanno le generazioni di mercato aperto quando comprano questi post dove vince sul mercato, il mercato aperto. Ok? Quindi vanno lì comprano questi post. E il post vanno tutti visti lo Stato e li ha comunque la posizione di questi post, sapete che fanno esercizi, no? Lo Stato non mettendo moneta, ma mettendo post, si impegna a tempo, facendo un anno, a ridare la somma nominale di questo post. Okay. Chi compra il post guadagna un tasso che c'è scritto sopra. Un post da 1 milione viene venduto da 1.000 euro, viene venduto a 980 e guadagna un titolo che è un particolare reddito. Ma la banca centrale, abbiamo detto, c'è il banconote, è stata da nulla, perché non c'è più copertura in oro. E questo non ha scandalizzato nessuno. Il 14 agosto del 71, tutti erano convinti che il tiro d'oro ci fosse un 35esimo di oncia, giusto? 35 dollari, oncia. Il 15, a mezzogiorno, ancora ha fatto quell'annuncio, e il 16 non c'è più niente. Chi quella mattina ha messo avanti 35 dollari per andare a cambiare in oro, non ci può più andare. E chi era questo? Era quello che era stato appena modificato dal cannibale, ha sbraiato un pochettino e lui si è scappato, sì, è morto. Tornare. Capito? Non è toccato a me. Nessuno di voi, ovviamente neanche io, era intenzionato a fare l'operazione, quindi nessuno ha nessun tocco, però noi ci vogliamo solo quando ci vuole, no? E non è successo nulla. E questo è come il discorso del credo. Ma tra dire che non è così e dire che è così, e dire che è una principà, aveva visto. Il fatto che non c'è più oro tira una banconota, e tu ti trovi accanto a tutte queste banconote, ma non ti hanno nulla. No. Dimmi, discorso mio. Quindi diciamo che la banca centrale stampa sotto zero delle cose che poi, tramite vari meccanismi, eccetera, vanno a prendere delle cose statali come il post e vengono messe nei suoi calò. Dice no, non è vero, il post, anche questo ci sta scritto, il post noi abbiamo il debito, sono i stessi. Questo non è vero, è un discorso di logica, è un discorso anche di economia. Il fatto che, metti gli italiani sono 60 milioni, che 59 milioni e 999 milioni fossero post, non vuol dire che il post rimane agli italiani. Rimane agli italiani, cioè sono cose che indicano una certa democrazia, non investimenti privati. E poi naturalmente tutti gli investimenti della storia non c'erano. Quanti sono questi privati innanzitutto che comprano questi post? Erano molti di debito pubblico italiano, adesso che tipo di 3 milioni di miliardi, o 3 miliardi di milioni di lire, questa cosa, sempre 15 interi. è in mano ai detentori dei titoli di Stato, ok? I BOT sono titoli di Stato, i BOT sono come BOT e sono l'85% di titoli di Stato in giro, poi sono CTZ, CCT, eccetera. Quindi diciamo che in questo modo il BOT è un debito per lo Stato, e in mano a chi? Direi Stato italiano? No, è in mano agli investitori, a chi ha voluto investire? Chi sono questi investitori? Io l'ho sempre casualmente, quando avevo la visione, dicevano che fino al 1980 la classica vecchina, ossia quello che mi mangia mio padre, chi comprava il BOT, erano l'80% degli italiani, degli investitori italiani, dei privati italiani. Quindi l'80% dei BOT, degli investitori comprava BOT, degli italiani, l'altro 20% istituzioni bancarie, ok? 80 e 20. Istituzioni bancarie e di questo 20% è una grossa percentuale, quasi la metà estere. Quindi banche e chiesa. Oggi, dicevo, visto che sono il legislatore, e poi il voto, quello lì per esempio per destinato è il capo di questo legislatore. Sempre tutto l'inter, quindi oggi il peso si è invertito, la percentuale si è invertita, i privati, quindi i cittadini privati, con i mani dello Stato erano tipo il 20%, oggi nel senso del 2000 e qualcosa, erano nel 2007 sono scesi al 7%. Gli italiani che hanno titoli di Stato italiani sono 7%. Il resto è in mano a figure, come si chiama, attori bancari, PIM, banche private, commerciali, banche centrali anche estere, per esempio la Banca d'Italia ha dei titoli di Stato americani, ok? Perché è quello che mi dice. Quindi ci sta, quindi stampano, c'è qualche maneggio e poi solo quanto per la moneta. Pagando 30 centesimi, questo costa 30 centesimi, non tanto una volta, quindi dice la banca di sì, però non è qui a pensare che fa la difficile, secondo me. La banca centrale sta con questo valore che non consiglio di Stato. In qualche modo, lo usa un mercato, non si faccia, non è stato penale, è stato contrario, è un punto di un potere, ci sono vari contrari cose. La cosa è la mattina in giornata, la mattina che si fanno queste cose. E lo Stato sta per volte, la sera per il morto del risolto, non esce in Stato nel morto del risolto. Di qua abbiamo, noi dobbiamo ridare, noi dobbiamo, quando noi dobbiamo ridare al legittimo proprietario, che è la legge della massima europea, e lo Stato deve riscattare il posto, ok? Ma se tu Stato hai scattato un esercito di riusare gli assegni, qualcuno così ti ricorda, questa era tanto noi che facevano le banche commerciali, pure da. Se tu Stato devi dare il tuo bot, devi andare a riprendere il tuo bot e lasciare il segno in giro, come fai? Lo Stato non può dire nulla. Lo Stato se facesse delle scarpe dovrebbe vendere delle scarpe. Lo Stato c'aveva Telecom, c'aveva diverse cose, c'aveva il Pignone, c'aveva delle partecipazioni in cose che producevano denaro. E quindi lo Stato, e con noi tutti siamo d'accordo, in un angoletto ci dobbiamo fare scarpe, quelle scarpe le vendiamo fuori. Con che provenci spegniamo la luce, se non ci devono fare per spegnere la luce, no? Lo Stato avete preso tutto, lo sapete, no? Avete avuto tutto lo Stato. Quindi da dove prende i soldi per andare a riscattare quel bot? Da dove si trova? In Italia, quello gira. Quindi lo Stato tappa, si riprende tramite le tasse la banconota e cade in ritardo, si scopre. Ok? Gli entra la banconota e quello gira dal bot. Forse così sarebbe ancora salvabile la situazione. Salvabile come il caso dopo un furto, cioè. È ancora vivo, ma. Sì, fisicamente, psicologicamente è distrutto, però è vivo. Purtroppo, come dicevo, più di 200, e quindi non penso, io non penso di caso, ho scritto poco, come decenni, poi facciamo a cambio, si fanno tutti gli interessi e siamo pari. C'è un discorso banale. Ma se tu sei tutto con 100 e poi 105, quei 5 in più chi lo fa? Quindi non ce lo vede questa cosa. È un discorso logico, no? Un'isola, se c'è solo un pozzo d'acqua, qui c'è un gestore privato, lui dice guarda, ci sono secchi d'acqua, le cose sono secchi e mezzo, e io altrimenti mezzo sono bello. Se non lo vado a quello vicino, dice mezzo, uomini, ho capito, ma il mondo è uno. È vero che finché poco posso pregare francese, poi francese è lo spagnolo, lo spagnolo è il nordafricano, e quando abbiamo finito di ciucciare di corso dall'estero, che quello che facciamo noi, quando giriamo con la macchina è fatta con dei materiali che non sono in oggi, produce una benzina, un combustibile che non è morto, abbiamo un'energia lo farlo, finito di rubare al vicino, vedo? Poi mangiare un pezzino dove c'è un tizio che stampa, ok, il capo deve essere da 100, solo lui può perché si stampavi, prende un imprenditore e dice dai 105 euro. Ora l'inventore può essere anche più forte nell'altro, in tanti opere nel mondo del carte, che facciamo riesce ad avere 120, 10 di generatori, 105, quindi 100, e 105 riesce a pagare il banchiere che ha dato. E che fatto? Il fatto chiude, non ci arriva, rivolta, o non fa bene conto, fa niente, quello che sia, ok? Questo la trova, ma non è in più, si è tutto quell'altro. Fisicamente non è possibile questa storia. Ammettiamo che sia possibile, voglio proprio aiutarlo, ammettiamo che invece, ok, non sono immorale, spiegato in Africa, vendo le scarpe agli africani, è come quel tizio, no? Ci sono tre tizi, vanno in Africa, uno dice, qua è inutile le scarpe che vanno scarsi, e poi dicevo, qui guarda se non scarpe che vanno scarsi, sono due modi di vedere la stessa faccetta, no? Di vedere i possibili mercati nel mondo. Riesco a pagare il mio debito, ok? Allora quando riesco a pagare il mio debito, come faccio a andare avanti l'anno successivo? Il banchiere dice non ti preoccupare, mi dovevi 105, quanto c'hai da? 90, da meno male. Spendi da una parte e il debito, ok? Spendi il debito di 15 e quell'anno spendi il debito di 15, è meno 15, è un debito pubblico di meno 15. E io faccio fuori dal nuovo, per due soldi. Da me posto, quello che non ce la fa a pagare, tra gli sprechi, ovviamente gli sprechi incidono, il mercato nero, le ruberie politiche, tutto incide ovviamente, in che misura e con che, in quale ambito, con che peso vogliamo combattere ovviamente noi, se tu vuoi dare la vita, perché un parlamentare prende 14.000 euro, questo è che diciamo i politici tutti certo, che 14.000 euro si è robetta, se tu vuoi dare la vita per questo, della vita per tutto. Se tu vuoi passare i politici a volantinare perché tu non fanno perché c'è di fascia di lì, e tu non ti vedi tu non fanno perché c'è di fascia di lì. Invece la parola di tutto la pioggia a finale di questa operazione, no? Quindi mettiamo che uno non riesce a pagare, va in debito. L'anno successivo quello che ho i soldi, perché solo i funzionari non hanno altri soldi che non in debito. E mentre posso, e questa cosa si ripete. Fino a che arriva su una cosa tale di debito pubblico di cui tu interessi fino a che un problema. Il problema non è più del più del 100, il problema è del più del 5. Non è più lo stato del più del 5. Oggi abbiamo grosso modo 70 miliardi di euro di interesse, quella grande si chiama servitù, non è una buona scelta a caso, no? Poliatrica, ma servitù su debito. Quindi lo Stato non solo è impossibile immaginare di restituire 1.300 miliardi di euro, sono 3.000 miliardi di capitale, quello ormai è detto con quella poi una montagna. La montagna genera un bel mondo, ogni anno, 60 mila, che bisogna in qualche modo prendere sul territorio, e le nuove tasse. Quando ci dicono che lo Stato è sempre in deficit, prende un deficit, è un'altra vittoria. Lo Stato non è mai in deficit, neanche con Berlusconi. Se ci ha provato, ci è quasi riuscito, ma lo Stato ogni anno gli avanzano dei soldi. Siamo avanti primario, è quello che facciamo noi a fine mese, no? Fa pagare tutto quanto, dobbiamo fuori cosa le tasse, saltiamo, saltiamo la macchina e ci avanzano 100 euro. Ci avete tutto mese, 100 euro. Poi il mondo c'è un livello scordato, se quanto debito con quello per 200. Come fai? Infatti l'Italia ogni anno rimane circa 30 miliardi di euro di avanzo primario, che come il mese di 70 va sotto. Ok, invece di fare più prenda, ho fatto solo di meno testa, chi sta contestando a te. ed è perché c'era la finanziaria. Prima la finanziaria mica c'era, prima lo Stato, prima la foglia di 100 e tanti prati, in questo modo, aveva nel suo bilancio da arrivare a fare uscire, ma non c'era la finanziaria. E pensavo dopo, come 10 guarderanno. Non è stato dopo che io sono venuto destra. Perché la mente è stessa che si sono fatte che non si può buscare quell'ambito della contabilità. E allora mi ha portato un'altra, che è appunto la finanziaria. Non finirò, come mi ricordo, il discorso di prima sulle proprietà private delle banche. Poi facciamo un discorso di prezzi sui mutui, e quando dicevano noi, allora la banca di Francia, io ho visto lo statuto che è statale. Parentesi nei parentesi. Primo, stiamo avendo un discorso millenario. Quindi, che la banca di Francia sia statale a 56 in senso che non c'è dovuto. La banca di Inghilterra è statale nel 96. Noi parliamo, quando parliamo di debito pubblico, parliamo di debiti che si tramandano da una gestione a un'altra. Quando lo Stato ci aveva in Savoia, quando hanno unito l'Italia, l'Italia è nata, il giorno stesso che è nata, aveva un debito pubblico. Che portò le schiere del debito pubblico di Savoia che l'hanno diluito con loro che avevano a Napoli. Questo è un discorso da fare. Che in meridione che mettano era una svizzera di più, perché era una svizzera pratica, perché avevano la moneta d'oro. La carta moneta che circolava aveva un rapporto di 1 a 1 con l'oro detenuto dalle banche. Ciao. Ok? Mentre la moneta spesso faceva la sorta di 3 a 1, che poi divenne 4 a 1, divenne 5 a 1. Ogni lira di carta aveva solo, con i 5 lire di carta, con una lira d'oro in copertura. E quindi il corpone no. Comunque cercare di internet, cercare di digitare, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che ognuno si possa dire, ogni Stato si possa dire, perché noi diciamo che niente che si voglia. Andiamo pure cacciare, guardiamo le cose, con i soldi, eccetera. È vero, però, contabilmente noi dobbiamo pagare sul debito. Quando fai da un debito, diciamo sempre, la banca poi la vuoi nazionalizzare. È ovvio che non cambia nulla al momento. Stiamo cambiando i medicanti le cose. Una cosa che ho letto questi giorni, tu dicevi, tutte queste decisioni, chi le prende? Come può uno Stato non convertire su una moneta, decidere di passare da una moneta all'altra, eccetera? Si fa quando lo decidono anche persone che non sono il popolo. Ad esempio, quando è stato costituito il Fondo Monetario Internazionale per fermare il dopoguerra, guarda caso la banca inglese, la banca d'Inghilterra è stata nazionalizzata nel dopoguerra, e la banca d'Inghilterra, era una cosa, la nazione d'Inghilterra che era un'altra, aveva bisogno di un prestito. Il Fondo Monetario Internazionale, creato allo scopo, sapete no? Cioè il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Il Fondo Monetario Internazionale è così. Chiediamo questo prestito se, indovinate un po' di cosa, stiamo parlando del dopoguerra, quindi in un'epoca, diciamo così, in un'epoca tranquilla, no? Finite le guerre, a parte le cose della bicicletta, eccetera, no? Una richiesta del Fondo Monetario Internazionale all'Inghilterra, il Fondo Monetario Internazionale, ovviamente privato, anche lui, una banca mondiale privata, ha chiesto allo Stato sovrano che non convertisse, che interdisse la convertibilità tra sterlina e oro. Quindi sa che riapri la convertibilità o la richiusa. E prima appena avevi creato la banca era aperta, quindi già ci sono stati movimenti che io per curiosità andrei ad analizzare. Tu ci aperto così, si è aperto in un'altra epoca di Italia sconosciuti. Peccato che l'hanno aperta tipo il 16 luglio di quell'anno, del 46, non mi ricordo, del 48, e l'hanno richiusa tipo il 20 agosto, cioè un mese e 40 giorni è durata questa cosa. Ossia, queste persone, come questi IGT, questi banchieri, che decidono cosa tu debba fare, tu cosa non sovrano, e queste cose hanno delle conseguenze mostruose, come appunto lo spavento, ad esempio, delle cose di oro. In soldoni, in Inghilterra, stava andando per stracci, e hanno dovuto chiudere la convertibilità della sterlina in oro, per dirvi il potere che hanno questi organi non volare all'interno su una singola nazione, che possono accedere al titolo della Banca Mondiale, se tu compresso la Banca Mondiale ti fanno una semplice, due cose, uno chiederlo, La seconda volta si va a utilizzare l'acqua. Ma non si troverà proprio scritto nel, diciamo, un codice, un contestivo, un codice fatale, dico, richiesta, c'è chi richiesta, quanto vuoi che fa. Tutto c'è scritto, e si va a utilizzare l'acqua, si va a utilizzare il servizio dell'acqua. Tu c'è chi codice, allora ce ne parliamo. Parliamo di quella quantità di cose che chiesto, posso dartela. Quindi, la sovranità a questo punto di chi è? Se quello decide l'acqua per pubblico o privata, la sovranità di chi è? È del popolo che tramite i suoi rappresentanti, con la popolana delle elezioni chiamata democrazia? O dei singoli privati che si danno o no la loro carta straccia in base al fatto che tu ti inginocchi o no davanti a loro? Come nel 800, no? Il suo terzo. Dice, dove i cazzi, dove le omita ti chiedere di esserti, ti dicono sono inginocchiati. Che c'è più facile di inginocchiati? Poi le omita ti dice, no, come la roccia, l'hai detto prima, no? Diceva, massacrare i tuoi guerrieri, mi hanno procurato un campo alla gamba, un po' inginocchiati. Quindi questo fanno questi signori, hanno un potere assoluto, che è superiore a quello del sovrano, che dicevamo, semplicemente perché hanno accesso alla creazione dal nulla di moneta. Ok? Concludiamo con la riserva patronaria, quella moderna, che era dei giorni nostri, che è il discorso dei mutui. Quando lavorando faticosamente per una giornata non riusciamo ad accedere a un questo allungato prezzo di carta, che cosa facciamo? A mucca a spalla, loro dei banchieri, e spiegate in banca. Io, se me lo rubano, poi dietro lo rubano sempre loro. Uscì la notizia poco fa, pochi mesi fa, che di un gruppo di albanisti che ha contestato che le indicazioni in quali linee andare a visitare venivano indicate da un gestore di banca. Perché? Io non l'avevo sempre chiesto. E quanto può essere generato una serie di letazia? Perché? Ah sì, ma loro lo sanno, si fanno, si sorvegliano. Ma di che? Ma chi mai sentire in una casa e in sentire quello non c'è niente? Però il cartone della pistola, che quello già nel cielo sta fuori, una sera se mangia la pistola che c'è maniera. Solo sentire alcuni dei miei nipoti perché sanno esattamente quello dei punti. E chi sa che cosa in casa? Sono due persone. Sì, la domanda è sul banchiere. Ok? Chi sa che cosa c'è in casa? Se tu c'è la pelliccia in casa, chi lo sa? Sì, è vero che ti pelinano, ma quando mai uno se ne sente sbandare, si fa una nota anche una volta lì, pensano sempre gli stessi, si possono, capito? Si possono proprio, ok? Quindi per dirvi di ci stiamo fidando noi. Una volta comunque che noi abbiamo questa banconota che siamo in banca, succede una cosa molto strana. Vi ricordate, no? Il banchiere faceva fiducia che sul fatto che tu non andassi a riprendere il tubo, come lo vino, fa di tutto che sulla voce oppure non vai a prendere la macchina, e che fa? Preste soldi. Di presta, la macchina è ferma, il porto a schermo, l'ora da fermo, non può fare nulla, no? Il banchiere. E quanto presta? Voi immaginate un pezzino che vuoto nel senso appunto di del bancario, arriva il banchiere, apre un locale, no, un locale di una famiglia di suo, ok? Sta sopra il banchiere e sotto cavata, perché non è stracalato, no? Tu vedi che vuoi 100 euro, se viene preso 100 euro, quindi non ce l'ho, non posso darti. Se casualmente, in ordine cronologico, viene prima uno che ti porta i suoi soldi, ti dà un impegno 100 euro, ti sono trattati bene, e come se fosse lo suoni, presta, tu poi viene dopo. Non è che chiama quello che senti, mi hai dato 100 euro, mi sono prestato, lui mi chiede 90. Ah, ma non lo so, non lo vedi tu, non lo conosco, mettiamoci a fare insieme, come fanno le banche islamiche, che concorrono i correntisti a chi chiede i soldi in prestito. Se tu vuoi fare scarpe, ti do una richiesta, 100.000 euro, 100.000 di lire, vuoi fare scarpe, ci mettiamo d'accordo, tu li vendi, mi dai il 7%, non il 2%, o come quello lì, 4%, no, un compianto, perché i prestiti sono anche mio. Allora il banchiere, sempre chiamato, sempre dice nulla, che fa? Quello chiede 98 euro, 90 euro, lui gli presta. Perché? Perché fa che tu non torni a prenderli. È come se quello ti deve fare un carico di legna, prende la tua bella macchina, ok? Prende il giro a fregare le farine, fa un guadagno, sulla rimedia di questa linea, e poi ti rimette la macchina, te la lava, te la pulisce, non lascia traccia, e tu quando vai a rimetterti la macchina, bella macchina, non ti contava. I miei figli non la guida, manco i mogli, non c'è stato uno solo a farla guidare. Ho capito, la guida dovrà imporci. Quello non è l'artista, la sua artista. Tu gli lasci la macchina, prendi il treno per andare a lavorare, fai un ritorno che prima di 12 ore, e quello va finta la macchina. La macchina è in grado di andare in giro. Ok? È importante la cosa psicologica, però tu credi una cosa che non è quella. Ti credi un professore in una cosa, ma non lo sei, non lo sei più. Tu dici, vabbè, quello il banchiere della vecchia, perché aveva 100 dollari in qualsiasi momento, fa che tu non gli dici niente, però c'ha questo rischio, questo batticuore quotidiano. Non tanto, prima di tutto perché è un caso strano, ma quando dovrai chiedere un prestito, quando chiedi un prestito tu devi dare le garanzie. In pratica, se devi comprare una casa, se devi 100 euro per comprare una casa, a quello devi dare la casa in garanzia. Ora, se la casa non è tua, è del venditore, tu te la firenze, se non devi dare i soldi al banchiere. Il banchiere non sono soldi tuoi, te li dà e ti prende la casa, ok? La metti in pezzo, no? Tu non paghi più quello che prende casa. Qui c'è bene logico per superare il primo correntista, colui che ha le possibilità di 100. A parte il fatto che non capisco tu partire a fare questi giochi, perché la casa non è tua, è di quell'altro. Ok? Peraltro si vede regalizzare una cifra che avrebbe un prezzo di un altro vizio, che dovrà lavorare sulla vita che è il banchiere più di un prezzo ovviamente, di una banconota da un altro. Quindi tu banchiere, perché chiedi gli interessi? Perché tu banchiere chiedi gli interessi su quella somma? Gli interessi sono da andare a lui, no? Il capitale di quello che chiede il tuo banchiere. A parte questo, non è finita. Quando io ti ho dato 90 euro e non ti ho tenuto 10 in casa perché so che tu vai sempre a prendere i soldi per sigarette, un po' di spicci in casa, io che ti dico, non ti serve la passionaria, che tengo solo una passione di te a fare l'introcapitale, quello con quei 90 euro ci va a comprare una casa. Quello che ha venduto casa, che cosa fa con 90 euro? Ti va a mettere in banca, ovviamente. Ah, ho venduto un appartamento di mia nonna che è morta, ma per il fatto dei soldi che ho, non ci posso andare in giro, li metto in banca. Che sia quella banca o un'altra banca, lo stesso, se le banche fanno cappello, come abbiamo visto, mettendo quei 90 euro in banca, le banche operano in regime sempre di terra frazionaria. Che cosa fa il signore banchiere? Dice 90 euro meno il 10% del 9, chi ne vuole 91? Questo allora, come dicevo prima, sempre che difende il sistema con i denti, o perché è pagato perché è greco, o comunque deve farlo, ti diranno che vabbè, ma è normale che funzioni così perché è per terra frazionaria, eccetera, eccetera. E allora qui dipende come vuole ritirare. O a perseguirlo in formato di fatti, perché adesso quando nel 2012 finirà il mondo o per i Maya o perché copia sta bolla per esempio a Cartinacca, poi potrebbe dire io lo sapevo, o io te l'avevo detto, in ogni caso se ti pagano di fare. Quindi questo perspettivo è meglio esporti subito, scegliere subito una linea, ok? Piuttosto che costruirsela a posteriori. Quel tizio che si viene con i soldi, il banchiere che si viene con i 9 in cash perché anche chi ha venduto casa può comprarsi le sigarette eccetera, che cosa fa? Presta con gli altri 81, giusto? Gli altri 81, vi dicevo, non è che vengono da cercarti, tutto ciò avviene se qualcuno chiede. E chiedere potrebbe essere un ostacolo per il banchiere, avete capito? Perché se c'è un posto dell'acqua sono sicuro che viene gente a chiedermi di chiedere acqua. Ma le 100 volte la gente potrebbe non averli. Queste richieste che per me il banchiere sono vitali perché solo ci prende l'interesse. E allora ecco qui che vedete con un'ottica diversa tutte le varie pubblicità, dov'è quel ragazzo con la parola testi sul fatto anche delle vendite, di poste commerciali eccetera. Il banchiere che deve fare di vede, ok? Se tu sei uno che si fa i tuoi comodori, si fa le sue cose prioritarie, non ha vizi, si accontenta di quella macchinaccia, oppure si trova a piedi, eccetera, ma tu sei un pessimo elemento, ok? tu devi avere quei vizi, tu devi la società trovare in questo modo, perché tu devi avere fede, tu devi avere bisogno di questo. Perché una volta mi sento da parte, mia nonna si mandava, non aveva mai comprato nulla nella tua vita a seguito. Si metteva tutti da parte, si compravati i terreni con la vigna, prima tutti da parte e poi compravi. Debito non ne hai. Perché come oggi il concetto di metodo da parte non è un mistico di più. Ok? Oggi che lei ha un mio vuol dire, quando mi vuoi dire, ah, vuoi comprare questo, e lei mi aspetta a comprare questa cosa, è il mio aspetto. Fatto che bella macchina, e ma fa 2 anni poi, un po' perché da 2 anni perché poi non la fanno più, ne farà un'altra. Oggi 3 giorni è assolutamente impensabile il concetto di mettere da parte per, ed è solo il risparmio che è il debito. Questo è uno slogan, eh? Se tu non risparmi, devi per forza accedere ad una linea, loro lasciano una linea di credito, ovviamente non viene detto, è assolutamente al contrario. Se vuoi una macchina subito, qui lo cerco di subito, li vuoi, tu mi prendi una carta per tutta la vita, potrebbe anche essere giusto o no, dipende da te, quanto sta, e stai dando il tuo famoso milligrammo di sangue alla zanzara che poi diventerà un certo grado, d'acqua, ok? Il fatto che tu, ad esempio, il tizio di prima voleva comprare casa, ma i soldi a rate non lo voleva dare al costruttore, a quello che c'è la casa. Muore di nonna, una casa è, tu ti vuoi abitare, dammi 1000 euro al mese, 500 euro, quello che puoi darmi al mese, e ti sento abilitato, no? Una sorta di scarpe, eccetera. No, perché a me hanno fatto la lancia del cervello, a me hanno fatto venire, mi hanno indotto, mi hanno mangolato, mi hanno indotto ad avere dei bisogni che non sono di fare, non sono neanche, come diceva un cortino, no? Facciamo lavori che non ci piacciono, per comprare cose che non ci servono, attaccate. Ok? Noi facciamo... Come? Ci sono da come? Ci sono da notte, anche al tipo... E poi ovviamente lo prendiamo nella testa. Perché a te tanto sei ridicolo che stai in questo tipo di motori. Come lo devi comprare? Ovviamente compri una mezza da notte. Ok? Quindi, il banchiere deve... C'è una credibilità tra il venditore di casa e la banca. Come? C'è un'altra credibilità per... Quando diceva Nicoli nel baratto partecipava a una transazione solamente i datori responsabili, quindi etici, di ciò che mettevano sul piatto, che nel baratto stesso, sul tavolo della salire, senza nessun altro intermediario, ora è lui che è creato l'intermediario. Il banchiere, vestendosi in quella maniera, parlando in quel modo, operando in quella maniera, anche soprattutto coltivando quest'aurea di incontrabilità, ma adesso le prese del tanto che sono fatte, come cattedrale, io il simboletto che ho fatto per l'omino che porta, posso trovare il secondo valore tutto, l'omino che porta questa struttura non è a caso, questa colonna, questa piramide, eccetera. Questa struttura, che cos'è? Questa struttura è una cosa di comando, l'omino è schiacciato da questa entità superiore, che può essere un tempio, la religione, una cosa politica, una cosa, una fede politica, no? E quindi viene schiacciato dalla cosa politica non democratica, perfettamente democratica. Oppure ovviamente una banca. La banca di Italia c'è la presenza, la banca di Italia c'è le colonne, c'è le cose, varie strutture bancarie sono fatte in questo modo, no? E anche la simbologia ha il suo potere. Ascolta, una persona che non è proprietaria della ricchezza, il proprietario della ricchezza era quello con la mucca. Quello con la mucca va a cambio per un pezzo d'oro che è stato sostituito da un pezzo di carta, è stato sostituito da nulla, perché l'ho cercato nel computer. Il proprietario di questa ricchezza, che la cella da un altro pensionista, ci tiene da te, che te ne intendi, che fa? Permette a quest'altra persona di ingrassarsi addirittura, di assumere un potere enorme. Con la tecnica della riserva frazionaria, che ricordiamo è in mano alle banche commerciali. Ok? Talmente volendo, le banche commerciali, alla fine si contano di la banca centrale, che dovrebbe essere il controllore. I controllanti comprano il controllore. Quando una società, banca intesa, capitalia, e un'impresa, eccetera, che si contano, scalano, le varie banche che si vengono nazionali, che scalano, e diventano proprietari di banca Italia. La Banca d'Italia che fa parte della Banca Centrale Europea, ok? Cioè il 15-16%. Questo perché? Perché tu hai voluto capire subito, perché tu non sei fidato di dare i colpi. Da una parte c'è quello che vuole capire subito, da una parte c'è quello che fa la carta che non si fida più di quell'altro, dice questo muore, non paga, scappa con i soldi, scappa con casa. Basta fare la legge, se quello non ti paga una rate, lo butti fuori di casa, se ce l'hai fino a poco con i figli, eccetera, eccetera, quindi non chiedi di sapere. Capito? Poi ti dice, la spada per l'interno è la spiegata di come si può fare. Solo con la paletta non è anche la cosa. Concludiamo con calcoli della serva. Ovviamente, se la riserva è del 2%, ossia ogni 100 euro solo 2 posso ottenere in casa tranquillamente, il resto posso prestarlo, e il prestato diviene a sua volta capitale per una nuova elaborazione, per esempio in tecnica di terra personale, ogni partito di ogni 100 euro posso crearne 4.009, totale 5.000. In ogni 100 euro che girano sono 5.000 euro per il banchiere. Quando il banchiere è 200 euro? 5.000. Quando è un albero? Un tavolo. Quando i banchieri piangono di un altro, non perché non mangiano, ma un tavolo invenduto, ok? Cercavo di usare le gambe, poi guarda, i rami fanno anche le gambe. E questo discorso sulla manipolazione, sulla creazione del nulla di denaro, eccetera, ovviamente nel testo abbiamo visto la contata di creazione persone lì con persona aumenti. Parecchie. Ovviamente nessuno è viva, sia per cose cronologiche che sarebbero un modo di morte violenta, potete bene, di conoscito, viene di ucciso, altri ucciso, gratis, perché gratis è stato un animale, no? È chiaro, perché gratis era un uomo del presidente che hanno sparato, è morto un mese dopo che hanno sparato per l'infestione, nel corpo. E lì, quello è un presidente degli Stati Uniti, c'ha proprio anche dei medici, anche dell'epoca, comunque, qualcosa che è molto valido, da un mexicano doveva morire, fa una lettera eccezionale, non ci va a trevare. Anche gli aiuti sì, ci sono, come si dice, chiedo che il signoraggio muore, ok? E questo che io ho parlato di quando non detto, cioè conto mio, così non ho parlato nulla del mondo. Ci sono varie allora, varie punti di mercato, vari aspetti da definire, da approfondire. Uno è questo tecnica della riserva nazionale, come le banche commerciali creano moneta da nulla. È una cosa perfettamente legale, dicevo del gruppo goliardico dei massoni. Lo sapete chi decide la riserva nazionale? La banca decide, ma mica la decido io. Questa è una cosa che devo fare perché non fate politica. E il politico la decide, sapete in che modo? Attestando una tutela negli interessi del correntista. È come dire che io Stato dico, guarda che le risultati che sono realizzate sono ammesse solo due al mese. Ok? Questo è psicologicamente l'apporto dello Stato sulla materia monetaria. Lo Stato dice, una legge, che sono stessi, di comprare che solo che tengono il 2% i banchieri, perché i banchieri non sono brava gente, potrebbero prestare tutto quello che hanno in cassa. Io, politico bravo, faccio in modo di arrestare questa cosa al 2%. Io per esempio di mio padre di una rivista degli anni 60, poi quando si ricadono queste cose di qualche modo diverse, no? E capolisti quindi il 100% che nel 57 la riserva nazionale era del 27%, quindi una banca doveva avere 27 lire ogni 100 lire, cioè ogni 100 lire che venivano depositate, 27 doveva avere in casa e poteva prestarne, all'epoca probabilmente tante la società che c'era per i bugiardi, no? Perché non è che questi soldi erano prestati, quando ho detto ogni 100 euro con 5.000, non ci puoi dire virtuale, ok? Non l'acqua, se solo nessuno gliela chiede, quello non la vede. Però, ovviamente, sapete bene quelle cose di massa, manipolazioni, eccetera, che è un facimento, secondo me, oggi. Infatti, Alessandro, su che documento è scritto quanto è la riserva nazionale? Lo chiedo perché la Fed, per esempio, ha un libro che si chiama Modern Money Mechanics, e lì c'è il dettaglio di... No, mi fa sempre cose così certamente, parlo di me, questo sì. Ho detto questa volta, no? E non so, il gerente sarà anche, ma Io l'ho cercato i documenti, non l'ho trovato. E dico che nel 57 è sicuro come il pane, che era al 23%. Un altro libro che ho online, che la finanza, non ricordo, Stella Monteluce, di tale Stella Monteluce, lui si lamenta, 20 anni, mi dispiace, non mi ricordo, anni comunque successivi, dice, ah, però vedete gli inglesi hanno il livello personale del 5%, invece in Italia siamo ancora al 18%. Ok, quindi dal 27 al 18. Oggi è del 2. Ok, tu mi ricordi, nel nostro caso c'è del 5%, perché forse si scuola ma hai cambiato il 5%? No, no, ma io mi riferivo al documento ufficiale. Come è successo che hanno modificato? È successo quello che avviene come quando tu hai bisogno di cosa, di una camicia, fai le cose che fai la camicia, ma la trovi in una fase di vita. Il banchiere va dal politico e dice, guarda, io non posso stare fermo 20. Io posso dire, tu, fa in modo che ti avevano due, il politico, quanto è due. Molti editori fanno, vedi qua, tutti quei posti sono due mercati, tu vuoi dire che tu misura, c'è la posti delle armi, ma in America la vita è nuova, no? Scusa, pochi anni fa non si parlava della patente, c'è cioè, il dell'auto, attento a te diciamo, questo è il problema. Cioè, bisognava vendere queste macchine, e poi dire al politico, guarda, non devo aspettare 10 anni, perché è stato... Nel caso di Giuseppe è stato, dobbiamo portarsi qua, 16 anni. No, ma non mi riferivo al libro, mi chiedevo se c'è un documento ufficiale dove sta scritto che per esempio adesso è il 2%. Ah, sì, c'è così. Ma è tipo nello statuto della Banca Centrale o... No, ho appena detto, è una legge dello Stato. Ah, legge dello Stato. Sì, ma è lo Stato che dice quante sostanze puoi dare, puoi prendere. In base alla richiesta che hai. Esatto, questo fa il doppio, diciamo, canovaggio per garantire da una parte banchi d'aria, le banche di noi, ma noi licenziamo, lo Stato. E lo Stato che io come sono stato bravo, ho bloccato i cattivi. Ok. E poi non fa parte da 20, ma non hanno scelto. Questo di giorno, i effetti di internet, di notte, allora di notte, perché di notte? Che succede? Faccio per anche altre cose. Tutti questi soldi, sono 5 e mezza, la banca è arrivata e chiude. Che ci fanno questi soldi? In Giappone, ogni giorno, un litro, di caffè. La parte di questo, lucrano anche i punteti, lucro in aria, continuano tutto quello di musica, che facciamo una cosa pratica. E quando tu vieni in casa a P2, tu su P2 dai la banca centrale ci fa gli interessi altrimenti. Ok? C'è nulla, che tutto ciò che riguarda il soldo produce, ecco che si chiama l'usura, una volta. Come maiale. Non per butta nulla, non per butta nulla. Il maiale spesso che produce una batteria di anali, no? Il maiale più uguale di altri. Due gambe buono, quattro gambe buono, due gambe no. E le banche spesse, quando prendono questi mutui, hanno un pezzo di carta che è comprato. E poi comprato una carta, se sei impegnata di pagarla, quindi la banca prevede un rientro di 100.000 euro, perché non fa una carta? In qualche caso questi musici, perché loro che fanno, fanno moneta. E questo vi dico che sono importanti concetti. Oggi che cos'è il concetto di moneta? Io vi porto un libro scritto da Bernanke, cioè Bernanke non era un qualsiasi, a parte il professore da Princeton, Universi, eccetera. Ciao, grazie, non te. Oggi è governatore della Terra di Terra. Pensa elicottero, non lo chiamo, no? Elicottero Bernanke, che si dice che passerà l'America, posso buttare tanti sacchi di dollari negli elicotteri, ok? In modo di creare liquidità, e prima che c'è i soldi che spendono si trovano. E se parla da un momento molto tragico, perché banche cadevano a domino, e la gente dava a prendere i soldi, che erano state state analitiche, a un passo dalla. Comunque questo Bernanchi sul suo libro non risponde. La voce è cacciare e dice comunque in generale alla fine è moneta tutto ciò che con la quale dice anche quando sono un altro vizio, con la quale è possibile effettuare transazioni. Anche due belle carte quindi diventano moneta fonte. Ok? Mutuo, incamerato, incassettato, intermittato, una serie di mutui diventano moneta. Sono in scatoli, no? Come del maniare, come le cose maniare, tutte le cose per la pastiglia diventano una moto di bala. Ovviamente scusate, il foto c'è dentro, poi è così da ripala. Ecco perché quest'anno i mutui che nessuno riuscirà a pagare, eccetera. Cioè. Qui da parlare del modo di responsabili della Banca Mondiale, la causa dell'acqua. Tu per accedere a un prezzo della Banca Mondiale devi sottostare a delle direttive. Una direttiva è la privatizzazione dei servizi idrici. E senti un po', il problema che con la finanziaria attuale è stata privatizzata, è possibile forse l'Italia è su qualche prezzo che non sappiamo. È stata privatizzata? Sì. Ma tante cose che non sappiamo che vengono in articoli, la sono pagata a mezzi di. Ho trovato un antico dentro un altro, che ha trovato l'ultima cosa? Che era sulla questione all'Italia. Con quel decreto i manager non erano civilmente responsabili delle loro azioni. Comunque sulla quella questione lì consiglio di leggere Confessioni di un Confessions of an Economic Hitman. Di John Perkins sarebbe Confessioni di un killer economico. Questo qui era uno sciacallo della CIA che era andato nei vari posti in Sud America e in Africa a cercare di comprare i capi dello Stato lì. Quando questi non potevano essere comprati, allora li mandavano agli assassini. Quando gli assassini fallivano facevano la guerra. E così che hanno sostanzialmente schiavizzato tutte quante le nazioni del Sud America e dell'Africa, quindi andavano lì, gli davano dei prestiti. Questi prestiti poi erano in cambio dei servizi, che in realtà erano le risorse che avevano gli stati, e rimanevano in debito per l'eternità, tra cui la privatizzazione delle risorse. Sì, però come stiamo parlando di Vabbè, sì. No, devo fare delle domande, perché ovviamente sono le questi che pensano, poi è questo che è M. Questi americani stampavano a fonte di cosa? Avete idea? No, neanche loro. Stampavano a fonte del bisogno. Se la popolazione era troppo ingrassata, stampavano un po' di queste e M. Dire. Durante l'occupazione americana, questa era la moneta che ci dava in Italia, no? I soldi liberali occupati. Sempre a proposito della vita e a proposito di quella che fa. L'americano che viene in Italia ci ha liberato o ci ha occupato? Sandro, prima stavi dicendo dei compiti per casa, cioè di cose che potremmo fare noi. Beh, approfondire questi meccanismi, perché ovviamente poi tutto questo non è che una persona sola, come dicevo io ho fatto degli amici di un'associazione che si chiama Primit, programma per la riforma monetaria italiana, che si occupa ovviamente non di politica, ma solamente di informazione. Di diffondere la consapevolezza di questa cuffa. Però ogni persona, prima, non vi so si rende la lezione a finire, perché io vedo sempre che prima venga individuo come conoscendo una consapevolezza, e automaticamente quella consapevolezza si può far cercare si espone come te, e quindi creare gruppo e creare volume. Il studiare, senza perdere il miglioraggio, in modo tranquillo, senza nessun preconcetto, senza nessuna paura, se siete in qualche modo legati al mondo bancario, amen, non è stato la paura. Cioè, quello che è stato stato, no? Potete però fare del bene da oggi in poi, potete informare un'altra persona, potete smettere di rompere le palle a qualcuno, magari che se no ci farete la morte a un'altra persona e oggi lo vedete con occhi diversi. Potete contribuire praticamente, se sapete fare particolari inclinazioni. Io sono in contatto con persone che fanno teatro, traduzioni, film, video, eccetera. Quindi spesso all'interno delle associazioni ci scambiamo le nostre competenze. Beh, hai trasmesso che sembra che io abbia potere di veto. Invece non so, quindi non è che tu faccia trasmettere tu domani a venire e trasmettere te. I siti sono gratuiti. Ok? Bisogna smettere di demandare. Quando poi avremo una struttura, noi che io faccio un'operazione no burn. No burn nel senso che è una cosa anche ricorsiva, no? Cioè non devi neanche credere di. Ognuno deve essere libero, soprattutto consapevole, di fare qualcosa per la società stessa, è il capo famoso del cannibale di prima. Mettere di pregarsi, ogni cosa tanto ci ritorna, perché come una barca è unica, ok? E ovviamente cercare di dare un peso diverso alle varie, come molti di voi sono già impegnati, no? Nell'azione. Sì, guardiamo la scimmia bianca del Congo, che ci fanno credere il mondo, però prendiamo anche le nostre automobili, che togliamo un po' di potere a quello del benzina, ma questo non vuol dire andare a piedi, cioè non andare a miei eccessi, fanno ovviamente per chi deve andare. Per noi si passa da una cosa, da un eccesso all'altro, perché c'è gente che dà la vita per gli specialisti, ma tutte cose che deve fare, ma che vuole proteggere ogni costo di animali, che vuole mirare addirittura a vedere in un certo modo, oppure mangiare determinate cose, o l'importante è, come dire, è assimilare queste informazioni un po' profondamente e andare ad inquadrare nel nuovo modo di vedere le cose. Perché fino a che tu non trovi come mica che la moneta, veramente pensavi che il problema fosse il petrolio. Ma il petrolio sostanzialmente che cos'è? Non lo devi pensare, l'ho dimostrato, no? La moneta nasce quando la gente andava a piedi. Quindi il petrolio non è un problema, no? Il problema è la moneta. E un domani che il petrolio sarà inventata una nuova cosa, sia il potere oggi lo tiene stretto e dominerà quelle aree di idrogeno, l'aria o l'acqua. E l'acqua negli anni 70 che dicevano, l'acqua a 100 anni, eccoci, ci siamo. Si parlava quella dell'acqua, ci siamo, no? Quindi i costruzioni che fanno queste battaglie era la storia di altri libri, di Lorenzo. In soldoni, ma chi parla se non voi stessi? In questo, cioè se non voi stessi, no? Pensate veramente che un politico possa, ma di dietro, no? Ma chi? La consapevolezza, come dici tu, è giusto, bisogna essere consapevoli. Però ci vuole anche un momento coordinatore. Ma il motore culo ci vuole. E qua ricordiamo nel problema, perché nel momento in cui ci vuole un momento di coordinazione, Allora, così chiudiamo veramente il cerchio. Io seguo da poco quella che chiama democrazia diretta. Ok? Una cosa molto bella, la democrazia diretta, ma che specie anche questo poi, in un altro film ne stavo anche parlato. Perché se la realtà trasparente, per capire con tutto, non ci va bene e proprio nel momento. Oggi non fai due, a volte con tre, a volte non da due, a volte con otto. Se vedo una cosa che sta fuori, veramente la limitazione è quello di dire che prendersi la vostra lavoro di spazio e sarà. Comunque, questo fatto che questa diretta prevede, tra le altre cose, il delegare innanzitutto essere partecipi di un ma poi anche delegare qualcuno, si cioè, capisce come adesso.